sa mare goba c'era sa sorea, c'era goba pure quea e a famiglia dei gobon. Il dì del matrimonio, i gera i sonadori, i gera gobi anche iori e a famiglia dei gobon. Goba sa mare, goba sa mare, goba c'era sa sorea, c'era goba pure quea e a famiglia dei gobon. Segretario, caiu con suo gobario e a famiglia dei gobon. Goba sa mare, goba sa mare, goba c'era su sorea, c'era goba pure quea e a famiglia dei gobon. E il dì del matrimonio, e c'era i due compari, i pare andromedari a famiglia dei gobon. Goba sa mare, goba sa mare, goba c'era sa sorea, c'era goba pure quea e a famiglia dei gobon. Il canonico Don Piero, qua goba fatta però e a famiglia dei gobon. Goba sa mare, goba sa mare, goba c'era sa sorea, c'era goba pure quea e a famiglia dei gobon. E lì del matrimonio, che c'era il signor Cirillo, qua goba fatta spillo e a famiglia dei gobon. Goba sa mare, goba sa mare, goba c'era sa sorea, c'era goba pure quea e a famiglia dei gobon. E dopo nove mesi s'è nato un bel puteo, s'era gobo anche queo e a famiglia dei gobon. Goba sa mare, goba sa mare, goba c'era sa sorea, c'era goba pure quea.